Buonanotte ormai, perché siamo già a mezzanotte, da 451 frammenti sonori, Radio Città Fujiko, e ovviamente siete in ascolto di una voce anomala per questo orario di trasmissione. Infatti conduce stasera il sottoscritto Eliso Scarpa, che ovviamente vi auguro una buona nottata e speriamo anche un buon viaggio in questo percorso di questa sera, e chiaramente un caro saluto a Max Macchia, compagno di questo progetto 451 frammenti sonori e 451 intersezioni, che va in onda sempre ogni lunedì su Radio Città Fujiko dalle 20 alle 21. Max Macchia, che non è presente stasera qua in radio, e lo sostituisco io, spero il meglio possibile, dunque il più che degnamente possibile. E stasera 451 frammenti sonori affronterà un tema che in parte anche 451 intersezioni del lunedì appena passato aveva in parte trattato. Siamo sempre nella dimensione del cosmo, dunque, come avevo detto già lunedì nella puntata di 451 intersezioni chiamata Viaggio nel Cosmo 00, una sorta di vero e proprio viaggio all'interno di galassie, mondi, pianeti sconosciuti, astronavi e autoscontri autocostruiti e autogestiti. Perché? Perché fondamentalmente c'è questa idea anche dell'avvicinarsi del Natale, la sensazione di finte feste, finti convenevoli, e dunque giochi ad incastro che vogliamo noi di 451 frammenti sonori costruire in questa settimana prenatalizia, anche per, diciamo, scombinare un po' le carte. Non credo che quest'anno ci sia molto da festeggiare, data la situazione di disastro politico, sociale ed economico in questo paese, però c'è sempre quel giochino un po' pubblicitario, un po' informativo di volemosi tutti quanti bene durante Natale. In realtà noi vogliamo fuggire da questo disastro di ipocrisie e di falsità e andare nel cosmo, o ipotizzare un futuro differente, mondi migliori possibili e viaggi interplanetari assolutamente da provare. In questo senso saremo un po' anche lisergici stasera nel viaggio sonoro di 451 frammenti sonori, che ricordo sempre potrete riascoltare o addirittura scaricare le puntate e soprattutto avere qualche notizia sui materiali inseriti nelle trasmissioni sul nostro no blog 451frammentisonori.noblogs.org, dove troverete sia la pagina dedicata a 451 intersezioni del lunedì dalle 20 alle 21, sia lo spazio consueto del mercoledì notte da mezzanotte alle 2 di 451 frammenti sonori. Bene, a questo punto andiamo al punto. Tema di stasera della trasmissione è Dance in Space, dunque siamo sempre nel cosmo, siamo sempre cosmicheggianti, ma affronteremo un percorso sonoro dance con venature più o meno marcate connesse alla dinamica cosmica spaziale. Dunque affronteremo techno, house in parte, elementi anche di jazztronica, ma anche e soprattutto dimensioni che abbracciano anche il dub, la dubstep e tutto ciò che può collegarsi a una certa intelligence dance, chiamiamola così, anche se non vogliamo fare i perfezionisti, soprattutto quelli un po' con la puzza sotto il naso, per differenziarsi dalla dance più dozzinale commerciale. E Dance in Space, dunque balliamo nello spazio, balliamo e sbagliamoci anche nello spazio come percorso proprio personale, mentale e sonoro. E apriamo subito con un autore assolutamente nuovo, il primo album uscito da poco tempo oltretutto, nel 2014, per l'etichetta, anche questa abbastanza recente, costruita dalla grande formazione dei Dem Dike Star, che hanno proprio costruito la DDS, che richiama chiaramente il loro stesso nome. Dem Dike Star, che ovviamente affrontano ben altri lidi musicali estremamente connessi a ambient, dark ambient, psichedelie e anche dimensioni industrial, che però nella loro etichetta hanno fatto esordire questo personaggio. Si tratta di Shiniki Atobe, giapponese, che ha collaborato in passato anche con i Dyke Star per i loro progetti, che ha appunto realizzato questo lavoro che si muove tra noise, dunque anche rumorismo, dimensioni ambientali piuttosto scure, ma anche momenti di dance anche molto calda e molto solare in alcuni momenti, dunque abbastanza spannante come disco, uscito proprio alla fine del 2014, intitolato Butterfly Effect. Ce l'andiamo a sentire, una traccia che io considero molto molto bella, che può ricordare un vero e proprio viaggio nel cosmo, ma un viaggio positivo, un viaggio sicuramente da provare, sarebbe proprio da provare insieme a questa base, sopra una navicella, un'astronave, decidete voi. Buon viaggio, iniziamo dunque con Shiniki Atobe, Butterfly Effect, buon ascolto. E siamo rientrati in diretta dopo questo viaggio che ancora vorrebbe andare avanti, perché è già ripartita la traccia successiva. Succede quando si pistola troppo tra computer, lettore CD e altre informazioni che si vogliono dare in diretta. Primo inizio dunque, inizio di Dancing Space di stasera di 451 Frammenti Sonori. Abbiamo aperto con questo nuovo autore, con questo ultimo album fine 2014, Shinichi Atobe Butterfly Effect, e continuiamo il nostro percorso sonoro, questo ballare dentro lo spazio, nello spazio, in tutte le accezioni possibili, ma la nostra accezione principale è quella legata al cosmo, dunque all'universo circostante a cui noi oltretutto facciamo parte. Banalità che vengono snocciolate da me in questa serata un po' strana. E dopo il personaggio prodotto dalla DDS, etichetta dei The Dyke Star, che anche come pronuncia mi mettono un po' in difficoltà, ci spostiamo a trovare un altro progetto che negli anni 90 ebbe un certo riscontro nella musica elettronica, nella techno ambient, molto molto apprezzati, soprattutto nei due album particolari, che il primo, l'esordio nel 1993, Big Rooms, e il successivo del 96, splendido lavoro, Live Traffic. E parliamo dei Deep Space Network, una formazione che ha segnato sicuramente la storia degli anni 90, che ha avuto la particolarità, diciamo così, di essere assente un po' dalla scena anche di produzioni musicali, seppur i musicisti poi hanno continuato a fare altre cose in termini artistici, da installazioni anche produzioni musicali e altre sperimentazioni personali, ma a livello di produzione discografica si erano sicuramente fermati, anche perché chiaramente c'era stato tutt'altre progettualità che erano state messe in campo dai due musicisti componenti di questa formazione. E però negli ultimi anni, esattamente nel 2014, nel 2004, sono ripartiti con un disco che poi ha lasciato, diciamo, il tempo che trova, nel senso che poi non hanno continuato a riprodurre qualcosa. Dunque 10 anni fa l'album è Raise This Flap, un bel disco uscito sempre per la Source Records, etichetta che aveva prodotto anche gli album precedenti degli anni 90, un buon disco senza punte particolarmente eccezionali o sperimentali o comunque innovative personali, ma sicuramente un buon disco con moltissimi richiami al suono anni 90, ma che sicuramente è da ascoltare, seppur non un risultato eccelso. Ricordiamo, anche per dare qualche informazione di una formazione che si era un po' persa per strada a livello di informazioni, composto da due musicisti sicuramente interessanti, soprattutto negli anni 90 hanno fatto delle ottime cose, e ricordiamo anche in particolar modo che questi due musicisti, David Mufang e Jonas Grossman, hanno poi portato avanti soprattutto produzioni discografiche, in particolare con l'etichetta che poi hanno costruito loro stessi come DSN, e poi anche altre produzioni, soprattutto video, dove hanno lavorato in termini appunto più aperti, meno legati soltanto alla dimensione prettamente sonora. Ci andiamo ad ascoltare un brano da Raise This Flap, uscito, ricordiamo, nel 2004, e continuiamo il nostro viaggio in Dancing Space. E siamo rientrati in diretta di Space Network Race This Flap 2004 e appunto il network dello spazio profondo, progetto che come nome, come titolo direi si addice perfettamente alla puntata di stasera, Dance in Space. Continuiamo proponendo una formazione che si muove all'interno della Deep House, in una house estremamente raffinata, con grande classe e grande maestria, riferimenti molto marcati a una certa disco anni 70, a un certo funk, ma anche con venature jazz, all'interno di una battuta estremamente semplice ma anche molto raffinata, una battuta ritmica estremamente intelligente da parte di Metro Area, formazione statunitense costituita da Darshan Yesrani e Morgan Geist. Ultimamente, oltretutto negli ultimi 2-3 anni, sono anche venuti in Italia con un DJ set estremamente bello. Formazione che continua soprattutto a lavorare con DJ set, dunque performance live, ma la produzione si è un po' fermata, ha avuto il suo massimo sviluppo all'inizio degli anni zero con il disco, diciamo un LP complessivo uscito per la Environ nel 2002 e moltissimi EP che sono usciti tra il 1999 e il 2005. In realtà poi c'è stata anche una post produzione nel 2007 di EP prodotti, realizzati negli anni passati. Andiamoci a sentire di Metro Area il quarto EP, perché oltretutto hanno avuto questa genialità, questa originalità di chiamare tutti gli EP come Metro Area, Metro Area 2, Metro Area 3 e via di seguito. Ascolteremo il 4 uscito nel 2001, sempre per la Environ. Ascolteremo un brano e qui entriamo in una sorta di Dance in Space particolare, con venature sicuramente black, anche se i due DJ sono interamente bianchi, diciamo così. Andiamo ad ascoltare Metro Area 4, così facciamo una pronuncia un po' americanizzante, Environ, uscito nel 2001. Metro Area